Ed è sempre l'ascolto di Radio Popolare, questo è Rimandati a settembre che sta prendendo quota. Studio Roberto Caselli e Paolo Magliocco e il nostro ospite di questa sera che è Gianvito Martino. Ciao Gianvito, ben arrivato. Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito. Dunque, Gianvito Martino è un neuroscienziato, uno che studia il cervello, quindi stasera facciamo un bel ripasso di quello che sappiamo del cervello e di come funziona mente, cervello, poi ci spiegherà un po' se queste distinzioni hanno ancora senso. Dunque, io sono un medico, specialista in neurologia, mi occupo in particolare di ricerca, anche se continuo a fare il medico, che è una cosa a cui tengo particolarmente. Mi occupo di ricerca, in particolare mi occupo di neuroimmunologia, che è un nome un po' strano, ma che è una disciplina, diciamo così, che prende origine intorno agli anni '80 e che in qualche modo studia sostanzialmente come il cervello fa a difendersi da tutto quello che in qualche modo potrebbe essere nocivo per lui. Beh, interessante, perché un tempo si pensava che fosse qualche cosa di blindato il cervello, no? E oggi invece si scoprono cose nuove. È proprio così, perché diciamo che nei primi 50 anni del Novecento, grazie soprattutto alle scoperte di un signore che si chiama Peter Medawar, che tra l'altro è stato anche assegnato del premio Nobel, si pensava che il cervello appunto fosse un organo cosiddetto immunoprivilegiato, così come l'occhio e il testicolo, cioè fosse un organo a cui il sistema immunitario non accedeva e che fosse in qualche modo protetto in generale dalle malattie, proprio perché era fisicamente protetto dal cranio ovviamente che lo contiene, ma protetto anche da dei foglietti molto sottili che noi chiamiamo meningi, delle membrane, che in qualche modo impedivano al sistema immunitario di accedere appunto al cervello e quindi evitavano che nel cervello in qualche modo si sviluppassero delle forme così infiammatorie o particolarmente dannose. Questa convinzione, diciamo così, ha iniziato a vacillare attorno agli anni 70, quando effettivamente gli immunologi hanno iniziato a raccontarci delle cose diverse, a raccontarci che le cellule del sistema immunitario, in particolare i cosiddetti globuli bianchi, che sono quelli sostanzialmente che producono anticorpi, insomma che ci difendono, invece non solo entravano nel cervello, ma pattugliavano il cervello continuamente, circolando all'interno di esso, e questo modo di controllare che il cervello funzionasse permetteva a queste cellule, nel momento in cui il cervello appunto iniziava a non funzionare, di aggredire direttamente, diciamo, la zona potenzialmente danneggiata. Quindi una sorta di appunto pattugliamento attivo, e questo effettivamente ha cambiato la nostra convinzione. Oggi sempre di più sappiamo che ci sono tutta una serie di meccanismi che contribuiscono a difendere il cervello, che in parte sono diversi da quelli tradizionali che noi conosciamo e dei meccanismi di difesa che in generale il nostro corpo utilizza, e che sono un pochino più complicati da studiare. Ovviamente li abbiamo scoperti più tardi, semplicemente perché il cervello è molto più difficile da studiare, perché è difficilmente accessibile rispetto ovviamente ad altri organi. Che cosa significa questo dal punto di vista delle possibilità di cura? Ma certamente significa molto, perché per esempio nel momento in cui abbiamo scoperto che appunto il sistema immunitario contribuiva nel bene e nel male, perché come voi sapete bene ci sono delle malattie che il sistema immunitario addirittura può determinare quando funziona male, le cosiddette malattie autoimmuni, no? Il sistema immunitario non riconosce più parti del cervello come proprie del corpo e in qualche modo le attacca. Ecco, in queste condizioni, quando insomma il cervello non funziona o quando c'è qualcosa che non va, il sistema immunitario riesce a riconoscere in qualche modo il danno, la tipologia di danno, e prova a montare, come si dice in termini tecnici, una risposta che è sostanzialmente finalizzata a eliminare il cosiddetto segnale di pericolo. Quindi sostanzialmente svolge una serie di funzioni, che sono funzioni sostanzialmente che in parte vengono riprodotte anche nel corpo in generale, ma che sono specifiche di quella determinata situazione, che ovviamente è peculiare. E che però possono essere pericolose anche. Che in alcuni casi sono pericolose, perché quando, per esempio, diciamo così, delle reazioni infiammatorie che sono finalizzate a proteggere il cervello, perché l'infiammazione è una reazione protettiva, noi purtroppo la consideriamo, diciamo così, dannosa, perché siamo, non so come dire, in una società dove gli antinfiammatori in qualche modo la fanno da padrone e che usiamo in maniera assolutamente scorretta nella maggior parte dei casi. Ecco, questa infiammazione in alcuni casi, se non si risolve autonomamente, se non porta a compimento la sua funzione, cioè eliminare il pericolo e ricostruire eventualmente il tessuto danneggiato, può diventare un'infiammazione cronica. Quando diventa un'infiammazione cronica, ovviamente può essere dannosa, perché perdura, diciamo, la ricerca del segnale di pericolo da eliminare, il segnale di pericolo non lo si trova più, ma il sistema continua, diciamo, a eliminare cellule come se queste fossero in qualche modo cellule. Finisce per danneggiare anche il nostro cervello. Esattamente, esattamente. Ecco, hai parlato prima di autoimmune, no? Ecco, ma com'è che una cellula a un certo punto si stravolge e non riconosce più il proprio self? È una domanda da un milione di dollari, come si suol dire. Beh, le ipotesi sono tante. Diciamo che, per dare una spiegazione che poi anche a chi ci ascolta in qualche modo possa essere insomma abbastanza esplicativa, possiamo dire che in alcune circostanze, diciamo così, la cellula danneggiata in qualche modo mette in evidenza alcune sue parti che erano rimaste nascoste fino ad allora, che il sistema immunitario non riconosce come appunto parti integranti dell'organismo, del cervello in particolare, perché non le ha mai viste prima, le scambia per esempio per dei virus. Questa si chiama mimetismo molecolare in termini tecnici, e quindi lo attacca perché pensa di dover distruggere qualcosa che è potenzialmente dannoso. Ci sono molti modi, diciamo così, molte teorie alla base dell'autoimmunità, sono teorie, diciamo così, appunto proprio perché sono teorie, sono ancora difficilmente dimostrabili. Questa mimetismo molecolare, come ti dicevo, è una di quelle, insomma, in qualche modo più soddisfacente dal punto di vista puramente teorico. Però non è così semplice. Sono i misteri del DNA, insomma, in qualche modo. Sono in parte i misteri del DNA, ma anche i misteri delle proteine, perché poi alla fine queste strutture che non vengono riconosciute dal sistema immunitario di solito sono strutture proteiche, non tanto strutture legate al DNA, alla sua funzione, ma a quello che produce il DNA, cioè la proteina. DNA. Certo, insomma, le proteine ovviamente vengono da lì, quindi è ovvio che sia anche il DNA coinvolto. Senti, solo la neuroimmunologia che studi tu basterebbe per occupare tutta l'ora della trasmissione, ovviamente, ma in realtà sul cervello si stanno scoprendo un sacco di cose, perché si stanno facendo un sacco di studi. Secondo te quali sono le cose più importanti, quelle più promettenti anche? Ma guarda, devo a dire a parte che... quelle che studi tu, no, ovviamente. No, vabbè, ma sai, cioè, sì, insomma, l'ipertrofia degli scienziati è ben nota, ma oltre all'ipertrofia ci deve essere una certa umiltà che non guasta mai, anche perché, come in tutti i lavori, credo, d'altronde. No, devo dire che sono tante le cose che si stanno scoprendo, ma diciamo che ultimamente io chiamo questo modo di ragionare sul cervello abbuffata neuromaniacale da un certo punto di vista, perché in qualche modo, diciamo così, da un'indicazione, da una pura indicazione, da una pura osservazione, spesso si tende ad estrapolare eccessivamente, diciamo così, rispetto al funzionamento del cervello. Possiamo dire una cosa: certamente sappiamo che mente e cervello sono la stessa cosa, quindi iniziamo a mettere un po' i puntini sulle i, come si suol dire. La mente è nel cervello e il cervello determina la mente. Per meglio spiegarmi, la mente è la proprietà emergente della struttura fisica che è composta da cellule che compone il cervello. Voi sapete meglio di me che la proprietà emergente delle strutture complesse non è altro che una proprietà in più rispetto alla sommatoria delle singole proprietà che sono determinate dai singoli elementi. Faccio un esempio che Daniel Dennett, uno dei padri delle neuroscienze cognitive, un giorno mi raccontò, che è molto esplicativo. Quando io apro il cofano di una macchina e guardo il motore, dentro non ci vedo il traffico. Però certamente il motore è quello che poi lo determina. Ecco, questa è una proprietà emergente. La proprietà emergente del cervello, cioè dei neuroni che parlano tra di loro, è quella che noi chiamiamo mente. Infatti, per renderla molto semplice, se c'è il cervello c'è anche la mente, se non c'è il cervello non c'è neanche la mente. E quindi questo credo sia un punto fermo. Certamente, nessun dualismo, insomma, no? Nessuna... Ma sai, insomma, senza voler offendere Cartesio, certamente da questo punto di vista un dualismo tende ad avere, diciamo, o perlomeno ad assumere dei connotati diversi rispetto a prima, perché relativamente al dualismo, a me è una cosa che ha sempre interessato in ambito filosofico, che è una materia che io, diciamo, frequento, ma da profano, solo per interesse personale, per esempio il concetto di mente estesa di Chalmers e Clark, che sono due filosofi, diciamo, contemporanei, che hanno fatto un esempio molto carino. Hanno preso come esempio due persone, una affetta da Alzheimer e una non affetta da Alzheimer. Hanno ipotizzato che queste due persone dovessero raggiungere la stessa meta e dimostrano che quella non affetta da Alzheimer la raggiunge, diciamo, utilizzando la sua testa, quella affetta da Alzheimer la raggiunge utilizzando, per esempio, un cellulare con un sistema di mapping che lo porta nello stesso posto. E loro dicono, beh, in questo modo noi potremmo contemplare anche il device elettronico, il cellulare, come una parte della mente, appunto questo concetto di mente estesa. Ma questo ovviamente non ha a che fare col concetto dualistico classico. Però questo tipo di ragionamento, che è un pochino poco convenzionale o va al di fuori, diciamo, della logica neuroscientifica stretta, per esempio può essere un modo di interpretare la mente, un modo un pochino più moderno. Ma a me veniva in mente un'altra idea di mente estesa, cioè il rapporto tra la mente e il nostro corpo, cioè il nostro organismo in senso più ampio, no? Del cervello, che la mente non sia una cosa che appartiene solo al cervello, ma che appartiene all'intero organismo. È proprio così, e in particolare la disciplina, appunto, che si occupa di questo è la psiconeuroimmunologia, che sono quelle terminologie complicate che noi usiamo, soprattutto lo usiamo per non far capire nulla agli altri e far pensare agli altri che siamo più intelligenti. Ma potrebbe non è così. Una psicosomatica. Potrebbe essere una psicosomatica, una traduzione della psicosomatica, hai ragione. Però devo dire che certamente, per esempio, una cosa straordinaria che noi abbiamo capito molto chiaramente, soprattutto negli ultimi anni, che per esempio abbiamo un cervello nel nostro intestino, il famoso gut brain cosiddetto, perché nell'intestino effettivamente abbiamo questi microorganismi, centinaia di migliaia, addirittura si dice che a fronte di 100.000 miliardi di cellule che compongono il nostro corpo abbiamo 1 milione di miliardi di microorganismi, poi alla fine noi siamo dei simbionti, noi pensiamo di esserci, sovrastano assolutamente, ma questi microorganismi producono per esempio i neurotrasmettitori, quelli a cui facevi tu riferimento prima, che certamente, perché c'è un collegamento diretto attraverso un sistema, cosiddetto sistema simpatico, cioè il nervo vago per intenderci, che forse è più noto, possono comunicare al cervello che cosa succede nell'intestino e soprattutto che cosa dall'ambiente raggiunge il nostro corpo e che cosa dall'ambiente potrebbe essere dannoso. E quindi dall'intestino in qualche modo allertano il cervello facendo capire che siamo arrivati a contatto con qualcosa che non va bene, che non funziona. Quindi questa è una parte molto interessante. Ma come si manifesta questa cosa? Come fai a capire tu? Essere vivente, insomma. Tu essere vivente, diciamo, non lo capisci, perché non abbiamo ancora gli strumenti per poterlo capire. Però ci sono tutta una serie di indicazioni, soprattutto sperimentali, che ci fanno capire che una certa flora intestinale è in qualche modo associata o correlata con un certo comportamento, un altro tipo di flora intestinale associata con un altro comportamento. Per esempio... Cioè, comportamento di che tipo? Adesso cerco di spiegarvi. Per esempio, se tu non hai un certo tipo di microorganismo nel tuo intestino, sei più ansioso o reagisci in maniera più ansiosa a una determinata diciamo, accadimento della tua vita. Ecco, adesso non siamo ancora in grado di capire esattamente nell'uomo come questo succede, ma certamente sappiamo che questo può influire. Allora, questa è una rivelazione autentica che merita un attimo di riposo, per cui ci sentiamo un attimo di musica. Un pezzo e meditiamo. E meditiamo nel frattempo. Tu hai proposto un pezzo degli America, se non ricordo male, sì, Horse with No Name. Mi sentiamo. Ricordo la mia infanzia. Perfetto. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. Allora, rieccoci con Rimandati a settembre. Il nostro ospite di questa sera è Gianvito Martino, che ci sta parlando appunto di varie cose relative al cervello, le cellule cerebrali, per esempio. Come sei arrivato tu a scegliere il cervello come ambito di specializzazione? Perché, per esempio, neurologia e non psichiatria? Questa è una bella domanda, perché effettivamente all'inizio pensavo di fare, anzi all'inizio devo dire, quando ero piccolino volevo fare il cardiochirurgo. Poi dopo, strada facendo, ho perso, diciamo, questa velleità di fare il chirurgo, anche perché insomma è una professione molto complicata, molto difficile, molto demanding. E arrivato in università, alla fine ho fatto l'incontro giusto nel momento giusto con un neurologo, che mi ha convinto per la sua capacità, diciamo, di leggere la neurologia come uno dei campi in maggiore espansione ai tempi, e certamente uno dei campi più affascinanti. La psichiatria ai tempi era più una psichiatria dinamica basata sulla psicanalisi, che era una cosa che onestamente non mi ha mai convinto, e quindi alla fine, grazie a questo incontro, ho deciso di fare il neurologo. E adesso poi... Senti, tu fai anche ricerca, lavori, sì, al San Raffaele, giusto? Ma cosa vuol dire fare ricerca sul sistema nervoso, sulle cellule cerebrali quantomeno? Vuol dire anche risalire alle origini del sistema nervoso? Ma quello, guarda, è un pochino più difficile da dire, nel senso che il cervello ha avuto un'evoluzione particolare, perché a fronte, diciamo, 3 miliardi e mezzo, che più o meno il tempo che è intercorso tra la comparsa della prima cellula sul nostro pianeta ad oggi, diciamo che il cervello si è sviluppato fortemente più o meno negli ultimi 2 milioni di anni, quindi relativamente in poco tempo, e si è sviluppato in maniera importante soprattutto grazie alla socialità. Cioè il cervello è diventato quello che noi oggi conosciamo perché noi a un certo punto abbiamo deciso di diventare degli esseri sociali, di interagire, da nomadi, primitivi, erranti, insomma ci siamo organizzati in tribù. E quel tipo di socialità è stata la ragione per cui il cervello si è sviluppato fino ad arrivare appunto alla struttura e alla funzione che abbiamo oggi. C'era già una corteccia cerebrale comunque, no? C'era già una corteccia cerebrale, ma era, devo dire, poco espansa proprio in termini dimensionali. Senti, ma è valida ancora questa teoria dei tre strati del cervello? Assolutamente sì, il cervello triuno cosiddetto di MacLean. Sì, è una cosa molto interessante che devo dire a me particolarmente piace come concetto, cioè c'è un cervello primitivo. Quello del rettile, come si dice? Bravissimo, no? Infatti il rettile non ha emisferi cerebrali, infatti quello ci sta a dire che si può vivere anche senza cervello, a parte che di esempi ne abbiamo a prescindere dai serpenti, diciamo, diciamo così, nella nostra umanità che frequentiamo quotidianamente. Ma a parte la battuta, effettivamente i rettili sono senza, diciamo, il cervello nuovo, quello che chiamiamo nuovo, appunto quello che si è evoluto, come ti dicevo prima. Il cervello primitivo, che è una parte molto profonda all'interno del cervello, cioè la parte che in qualche modo congiunge il midollo spinale con appunto la calotta, gli emisferi cerebrali, e in quel cervello primitivo perché è necessario e sufficiente? Perché al suo interno ci sono i cosiddetti circuiti della sopravvivenza, che sono sostanzialmente tre: alimentazione, riproduzione e difesa. Con questi tre elementi, diciamo, con queste tre funzioni... Era tutto più semplice. Era tutto più semplice, bravissimo. Poi c'è stato questo cervello intermedio, il cosiddetto sistema limbico, chiamiamolo così, che è un ponte tra istinto e ragione, si chiama così, si dice così. E poi questo nuovo cervello, che è appunto quello che noi, diciamo, tendiamo a rappresentare, cioè questi emisferi cerebrali, che sono il nuovo cervello, quindi in cui in teoria dovrebbe esserci la cosiddetta razionalità. E noi ce li portiamo dietro tutti e tre, però. Sì. Noi sì. Io ricordo quel film meraviglioso in cui si parlava appunto in termini di c'era la Borita, no? che parlava appunto dell'evoluzione del cervello. Adesso Mononcle d'America si chiamava il film. Non so se tu l'hai visto, no, se hai avuto bisogno di vederlo. No. Ed era straordinario perché al di là delle storie ogni tanto arrivava questo signore, questo neurologo, no? che ci raccontava appunto il cervello da rettile, il cervello da mammifero e invece quello come dire umano, insomma. Ma lì sta il problema, lì sta il problema, perché noi pensiamo, o comunque la nostra società tende a pensare, che l'essere umano è un essere razionale, e purtroppo non è così. Il cervello è molto poco razionale, se devo dirla, diciamo, in termini semplici, e questa sua irrazionalità, cioè questa sua istintività, permettimi di usare questi due termini in maniera analoga. L'uomo è una bestia, insomma. Bravissimo. E quindi stiamo cercando di capire quanto l'irrazionalità sia indispensabile e quanto questa in qualche modo determini poi la nostra razionalità. Il cervello fa errori, strategie fallaci, ne usa molte. Semplicemente basta pensare a come noi vediamo, la visione binoculare, no? Gli oggetti piccoli sembrano lontani, quelli grandi sembrano vicini, quando magari non è così, o per esempio le sequenze di numeri che noi interpretiamo in base a come i numeri sono messi in sequenza. Ecco, questo è uno degli aspetti, come mi chiedeva Paolo prima, che in questo momento effettivamente stanno emergendo, perché c'è la convinzione che, e c'è in qualche modo la volontà di utilizzare strumenti multidisciplinari che prescindono, diciamo, dall'utilizzo esclusivo delle neuroscienze, quindi che contemplano l'etologia, l'antropologia, la fisica, la matematica, eccetera, eccetera, per appunto cercare di capire quanto questa irrazionalità poi pesa nei nostri comportamenti quotidiani. Devo dire che sarebbe un gran passo, perché, diciamo, a parte in qualche modo rendere le persone che pensano che il libero arbitrio esista, insomma, meno sicure di quanto effettivamente lo dovrebbero essere, ci potrebbe dare una serie di strumenti che ci permettono di non compiere una serie di errori banali, no? Però uno dei pregiudizi, diciamo così, sul modo in cui funziona il nostro cervello è che quanto più la parte razionale riesce a controllare quella emozionale, emotiva e antica, no? E tanto meglio, tanto più siamo umani in qualche modo. Però è tanto più ci sta peggio fisicamente. Questo è il concetto. Dove sta la verità? Ma guarda, allora mettiamola così: sui circuiti di sopravvivenza poco hai da fare e poco hai da lavorare. Non so come dire, se hai fame, difficile, diciamo, che tu razionalmente sopprimi l'istinto della fame. Se ti devi difendere, difficilmente razionalmente supprimi il senso, la capacità di difenderci. Quella della riproduzione, quella della riproduzione non l'ho toccata. Un drammatico interrogativo. Lascio un drammatico interrogativo e lasciamo risolvere ad altri, diciamo così, visto che abbiamo detto tutti che siamo over 50 abbondantemente. Ma no, il problema particolare invece è questo, cioè è che su questi aspetti è molto difficile, come vi dicevo, ragionare in termini razionali. Però un altro elemento fondamentale è la rapidità con cui tu devi dare la risposta. Allora, più la risposta è rapida rispetto a questa tipologia di argomento, più prevale, diciamo, l'aspetto irrazionale. Quello istintuale, diciamo. Quello istintuale. Non peraltro, come voi ben sapete, la pubblicità si basa su sesso, violenza e cibo. Guarda caso, si va sempre lì. E questo è il modo più bieco, secondo me, per approfittare, diciamo, dell'irrazionalità del cervello e per convogliare una serie di messaggi che sono assolutamente disturbanti per una società che si ritiene civile in qualche modo. Ma così è. Quindi chi fa quel, si usa quel termine assurdo che io odio, di neuromarketing, non fa altro che sfruttare le nostre debolezze. E questo, secondo me, se noi riuscissimo esattamente a capire come funziona il sistema, forse potrebbe essere uno degli argomenti a cui possiamo mettere un freno, comunque cercare, non per creare uno stato etico, lungi da me l'idea dello stato etico, ma per cercare di capire dove sono i nostri limiti e in qualche modo come fare a superarli. Bisognerebbe discuterne, quantomeno, dici. Bisognerebbe discuterne, ma non lasciare passare la cosa così. Diciamo che qualcuno discute di questo. Per esempio, negli Stati Uniti c'è questo concetto del paternalismo libertario, che è uno dei modi che in qualche modo sono stati proposti ultimamente per cercare appunto di capire queste razionalità e porre rimedio. Faccio un esempio, diciamo, banale, ma per cercare di spiegarmi. Quando noi andiamo al supermercato, noi scegliamo i prodotti ovviamente in base a come sono messi negli scaffali. Certo. Noi abbiamo un modo molto semplice, molto irrazionale di sceglierli. Beh, in una società sono in quelli cui... Quelli davanti, quelli che ti arrivano davanti, poi sai, abbiamo le telecamere, ci controllano, studiano i nostri comportamenti. Benissimo, in una società dove l'obesità sta aumentando in maniera drammatica, io cercherei di mettere lì dove andiamo a scegliere i prodotti meno calorici, se fossimo delle persone, insomma, in qualche modo intelligenti. Non mi sembra che questo sia uno stato etico, mi sembra che sia solo un modo ragionevole di evitare che noi incappiamo appunto in queste irrazionalità che poi ci porta a un sovraccarico in termini di costi sia sociali che economici. Basterebbe togliere le patatine dalle casse dove si paga. Si scontra come al solito l'aspetto commerciale con l'aspetto etico, che ovviamente è un problema annoso e che coinvolge, ahimè, non solo questo. Certo, ma capisci qual è la scusa? No, noi non possiamo obbligarti perché tu sei libero, certo, di scegliere. Beh, questa è una scusa banale, questa non l'accetto. Non puoi dirmi, certo, così, perché io non sono libero di scegliere. E chiaro, tu mi costringi a scegliere. Quindi di che etica stiamo parlando? Di che libero arbitrio stiamo parlando? Di quello che fa, diciamo, ingrassare le casse di chi può interessato? Ovviamente è così. Ovviamente è così. Questo è un bellissimo dibattito, è un tema che merita sicuramente di essere approfondito e ripreso. Noi ci fermiamo un attimo con un altro pezzo che hai scelto tu, Gianvito, Fabrizio De André, un'icona in qualche modo, Creusa de Ma. Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, densi tu du vali, a se mostrani, e a neta na punto, cotelo agu, e a monta la seu geresto tio, o diavolo in se, o sega effetto nio, ne shurtimo da uma, pesci vai o se da odria, a fontana di cumbi, tacca de pria. De pria chi che saia in tacca d'udria con un lemaina gente delicata facce de mandila vuoi che tu lo preferisci la figlia de famiglia o du de bon che tipo a mia le senza algum dun e andare e andare. Se vê, consegue daia, você dá bem, você dá manja. Fritia de pinhe, janco de portofim, cervele de pé, tu mesmo vim. Lasagne da filha, ai quatro tuque, patigo e negro doce, de lebre de cuque. E anda, meu, e anda. A barca do vinho e naveguemos xiscante, emigrante do rio, muito entiante. Fim com a tincrechada, poeira urecante, redigando, venia de fite. Bacana corda, marça de gué de sã, caneliga e ne porta, antena cruza de mar. E anda, meu, e anda, meu, e anda. Sempre rimandati a settembre, sempre Gianvito Martino, nostro ospite. Neuroscienziato. Neuroscienziato, certo. Allora, abbiamo messo un po' di carne al fuoco, abbiamo parlato di cellule nervose, le cellule nervose, ma a un certo punto le cellule nervose hanno cominciato a interagire tra di loro, insomma la prima cellula nervosa ha cominciato a interagire tra di loro, con altre cellule di questo tipo, no? Però tu dicevi prima fuori onda che c'era già una predisposizione, c'era già una sinapsi presente in alcune cellule. Ci vuoi spiegare meglio? Ma sì, guarda, non sono argomenti che io, diciamo così, coltivo se non dal punto di vista puramente dell'interesse culturale, però effettivamente questa biologia che si occupa, diciamo, dell'inizio della vita, in particolare un gruppo di ricercatori scozzese, ha scoperto che nelle prime cellule che sono comparse appunto sul nostro pianeta, si parla di miliardi di anni fa, avevano una struttura sulla membrana che assomiglia a una sinapsi, come per dire che la cellula nasce già con la convinzione che per funzionare deve comunicare con qualcun altro. È già predisposta. No? È già predisposta. E pensa che questo aspetto, adesso grazie che l'hai ricordato, perché ricorda una serie di teorie nuove invece che parlano di cellula sociale a sociale e che in qualche modo cercano di sostenere, diciamo così, che l'interazione tra cellule in qualche modo riproduce nel microcosmo quello che avviene nel macrocosmo, cioè i rapporti sociali che noi abbiamo tra le persone sono tutto sommato, potrebbero essere la risultante poi di comportamenti sociali. Quelli che ci sono tra i nostri neuroni. Sì, neuroni o cellule in generale. Quindi i neuroni sono fatti per dialogare tra di loro, attraverso le sinapsi. Allora ti faccio una domanda di quelle da $1 milione. È più importante il neurone o è più importante la sinapsi, cioè la comunicazione tra i neuroni? Bah, allora direi che è più importante la comunicazione tra i neuroni. È più importante perché il cervello ha un modo, tornando un po' al discorso del cervello che si difende, ha un modo molto interessante di difendersi, cioè quando elabora un'informazione complessa. Io per esempio, Paolo, ti vedo, io non ti riconosco come Paolo. Riconosco la tua voce, la tua altezza, il colore della tua pelle, riconosco la tua barba, riconosco, diciamo così, le tue fattezze in diverse aree del mio cervello, no? E le suddivido in informazioni elementari. Poi le collego tra di loro e la proprietà emergente di quella rete neurale è Paolo. Ok? Perché il mio cervello fa così? Fa così perché se io perdo una delle informazioni elementari non perdo l'informazione generale. Quindi è un altro modo che il cervello utilizza per difendersi. Un Paolo senza barba. Sì. Quindi questo ti dà la dimensione di come nella comunicazione, nella creazione della rete neurale da cui emerge realmente il pensiero complesso. Quindi le informazioni, anche i nostri ricordi, i nostri saperi, non sono tanto, no, è sbagliato dire che sono appoggiati sui singoli neuroni, sono nel dialogo che i neuroni sono in grado di stabilire tra di loro. Sì, e c'è ancora un'informazione in più su questo, un'altra delle cose, adesso mi state toccando su punti che poi, a parte l'aspetto... Ti abbiamo invitato apposta. No, ma devo dire, sono molto stimolanti, perché poi è difficile parlare in maniera divulgativa di temi che comunque hanno una... dei connotati, diciamo così, tecnici, però è molto interessante pensare che l'ippocampo, cioè quella strutturina appunto a forma di ippocampo che abbiamo nel nostro cervello dove immagazziniamo i nostri ricordi, cambia strutturalmente del 2% ogni anno. È una delle due parti del cervello che cambiano fisicamente. Quindi noi per ricordare quello che siamo e per conservare le nostre memorie dobbiamo continuare a cambiare la scatola in cui le conserviamo. Questo è un concetto abbastanza rivoluzionario perché non è intuitivo nell'immediato. È esattamente il contrario di quello che noi in qualche modo tendiamo a pensare. Quindi è nel cambiamento che noi siamo quello che siamo, non nella staticità. Ecco, quindi la nostra identità da questo punto di vista è per quello appunto che ricordavo anche prima che avevo scritto questo libro In crisi identità, per dimostrare che nel cambiamento continuo che noi manteniamo le nostre caratteristiche, non nella staticità che noi pensiamo sia, diciamo, un privilegio della nostra specie che determina chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo e cosa pensiamo. Adesso molto ci torniamo ai tuoi libri e al tuo lavoro di divulgatore, che invece è molto importante. Prima però volevo farti una domanda. Abbiamo parlato di conoscenza, abbiamo parlato di capacità appunto di ricordare, ma quindi c'è la memoria. Ma cos'è la memoria? La memoria sono delle molecole in realtà. Devo dire che anche questa è una bellissima domanda. Un po' come che ne so, cioè i globuli bianchi che in qualche modo hanno un compito preciso. Allora, diciamo, è molto difficile, dare una struttura alla memoria. Possiamo dire una cosa che è molto importante. Tra l'altro sono studi fatti da Cristina Alberini, che è un'italiana che lavora con Eric Kandel a New York, molto brava, che se noi, per esempio, eliminiamo certe proteine, eliminiamo certi ricordi. È molto difficile pensare che un ricordo sia all'interno di una proteina, ma è vero che questo realmente succede, o perlomeno succede, sto parlando anche prima quando mi riferivo al cervello e all'intestino, parlo di dati sperimentali fatti ovviamente in laboratorio che devono avere ovviamente una conferma anche sull'uomo, perché poi è sempre difficile e non, è sbagliato estrapolare. Però questo è effettivamente qualcosa che è stato dimostrato. Questo in particolare per le memorie cosiddette a lungo termine, cioè quelle che noi dobbiamo immagazzinare, non quella memoria a breve termine. Però, allora, a me viene proprio in mente che ci sia una comparazione possibile con l'immunologia, no? Cioè noi abbiamo, voglio dire, certe molecole che ci permettono appunto di non ripetere la stessa malattia in qualche modo. È un ricordo in qualche modo presente dentro di noi che ci aiuta, no? Ci aiuta a evitare di ammalarci di nuovo dello stesso malattia. Sì, sì, è bello questo paragone. Avrei difficoltà a cercare, cercare no, di dare una spiegazione scientifica, ma hai ragione da un certo punto di vista. E devo dirti che effettivamente Edelman, anche lui un premio Nobel, che ha preso Nobel per l'immunologia, poi si è dedicato negli ultimi anni, morto pochi anni fa, a sviluppare una teoria della mente. Effettivamente non tanto, aveva paragonato la memoria immunologica, quella a cui tu facevi riferimento, cioè i globuli bianchi che si ricordano la malattia che hai avuto, l'aveva paragonata al modo con cui i neuroni in qualche modo interagiscono. Devo dire che era una cosa, diciamo, teorica, che poi è stata in qualche modo anche da Jean-Pierre Changeux nell'uomo neuronale, era stata, diciamo, ampliata concettualmente. Questo darwinismo neurale, quello che in qualche modo lui aveva suggerito, però in qualche modo portava nella direzione a cui tu avevi accennato, anche se anche lì, proprio perché era una teoria, ovviamente poi deve essere, diciamo, provata. La scienza, ecco, insomma, non si occupa di opinioni ma di fatti, questo è il punto vero. Quello che stai dicendo rimanda a un altro grande tema sul cervello, e cioè la plasticità del cervello. La plasticità del cervello che è fatta della nascita continua di nuove sinapsi, di nuovi collegamenti tra i neuroni, ma anche, e questa è una scoperta importante che è stata fatta negli ultimi anni, del fatto che i nostri neuroni continuano a rinascere nel corso della nostra vita. Si pensava che avessimo quella dotazione lì e basta, invece no, abbiamo delle cellule staminali. Cavolo, ragazzi, ma siete più bravi di me, ne sapete più di me, potevate farla voi la trasmissione. È proprio così, hai ragione. È una scoperta del 1965 dovuta, insomma, a questi soggetti Altman e Das, che nel 65 scoprono negli animali di laboratorio che ci sono utilizzano dei traccianti radioattivi e vedono che effettivamente c'è appunto radioattività nel cervello, che era indicativa appunto di DNA che si replica, perché ogni volta il DNA si replica, il radioattivo si inserisce nel DNA e quindi tu puoi misurare in base all'intensità se appunto c'è stata replicazione cellulare. E scoprono nel roditore prima che in due zone, appunto l'ippocampo, e in un'altra zona, cioè attorno ai ventricoli cerebrali, che sono quelle cavità dove scorre questo liquido che insomma in qualche modo irrora il cervello e lo alimenta, c'erano delle cellule che in qualche modo erano in grado di riprodursi nel cervello adulto, perché ovviamente nel cervello embrionale lo sappiamo fin dalla fine dell'Ottocento che questo succede. Chiaramente, se no un cervello ovviamente non si potrebbe sviluppare. E questo lavoro poi è stato confermato nel 90 sui primati e poi solo negli anni 2000 dal gruppo di Fred Gage in California nell'uomo. Quindi nell'uomo sappiamo da pochi anni, quindi è vero che la scoperta di Altman e Das data 65, ma nell'uomo data anni 2000. Che i staminali nel 65 ancora non erano un concetto. Esatto, sì, non era un concetto, diciamo, alla portata di tutti, ma solo di pochi specialisti. Sappiamo dagli anni 2000 invece che anche nel cervello umano abbiamo queste due aree in cui effettivamente, appunto come ti dicevo prima, noi produciamo nuove cellule. Si parla adesso, i numeri sono strani, si parla di 700 cellule al giorno, ma insomma dare i numeri in questo caso è sbagliato, è proprio dare i numeri perché poi non si riesce a misurare realmente, ma effettivamente succede questo. E queste cellule sono appunto le cellule staminali del cervello. Quindi c'è qualche speranza, insomma, visto che ne perdiamo tante nel corso della nostra vita. Cosa ce ne facciamo di queste nuove cellule che nascono nel nostro cervello? Cosa ne sappiamo del loro destino? Allora, torniamo, adesso parlo anche un pochino di quello che faccio io, insomma, perché alla fine, insomma, mi fa anche piacere raccontarlo, perché mi collego al discorso della difesa del cervello. Noi abbiamo scoperto che queste cellule, in particolare quelle attorno ai ventricoli cerebrali, mentre quelle nell'ippocampo appunto servono a continuare a mantenere la memoria degli accadimenti, eccetera, quelle attorno ai ventricoli cerebrali abbiamo scoperto che invece interagiscono col sistema immunitario e formano una sorta di barriera immunologica alla penetrazione di agenti estranei che potrebbe avvenire attraverso appunto questo liquido che irrora i ventricoli e che in qualche modo è il collegamento che il cervello usa tra l'interno e l'esterno. Quindi in qualche modo, diciamo, il nostro contributo al campo delle staminali è stato quello di dimostrare che le staminali sono cellule immunologicamente, diciamo così, competenti e quindi fanno parte anch'esse del sistema di difesa, non solo perché rimpiazzano neuroni che muoiono, diciamo così, ma anche perché aiutano il cervello a evitare di danneggiarsi in qualche modo. Che poi è il compito delle staminali, no? Di assumere la funzione nel luogo in cui si trova. Ecco, ma vedi, perché a te viene spontaneo pensarlo, no? Ed effettivamente sembra l'uovo di Colombo quando lo racconti, però sai, gli scienziati poi alla fine non sono così intuitivi, nel senso che cercano sempre di complicarsi la vita, però effettivamente poi dirlo è un conto, poi devi anche dimostrarlo. Però, noi l'abbiamo dimostrato e insomma da quel punto di vista lì siamo molto contenti di averlo fatto. Però andiamo anche un po' più con l'accetta. Parlare di staminali del cervello significa parlare anche di invecchiamento del cervello e della possibilità di modificare o di rallentare o di invertire l'invecchiamento del cervello. Ma forse ne ci prendiamo dopo una il prossimo pausa. Pezzo. Sì, sì. Il prossimo pezzo è proprio una roba da Queen, proprio Who Wants to Live Forever. Così ecco, ringioviniamo. Appunto, parlando di invecchiamento viene esatto. Spontaneo, proviamo a ringiovanirci. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? Who wants to chance for us? It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Yeah. Allora, queste staminali possono servire a rigenerare il nostro cervello in prospettiva? No? Allora, guarda, io dico quando parlo di staminali, dico sempre che sono una grande opportunità, ma non sono ancora una realtà consolidata. Ad oggi non abbiamo dati certi che le staminali del cervello siano in grado di curare qualsivoglia malattia del cervello. Quindi non abbiamo tra le mani una cura che oggi possiamo offrire ai malati che hanno sclerosi multipla, Alzheimer, Parkinson, epilessia e diciamo le malattie più comuni del sistema nervoso centrale, ma anche quelle meno comuni. Sono una grande opportunità perché abbiamo effettivamente tutta una serie di dati preclinici ottenuti in laboratorio che ci fanno pensare che forse in un futuro prossimo, in qualche circostanza specifica, le cellule staminali potrebbero, una volta trapiantate, essere utili per in qualche modo ricostruire almeno qualche pezzettino di cervello danneggiato. Ma devo dire che siamo ancora, si parla di baby science che soffre di dolori di crescita, per intendersi, siamo ancora veramente all'inizio. Stiamo andando già verso la fine della trasmissione, non abbiamo ancora molti minuti. Una cosa che ci terrei, se riesci a darcela, visto che stiamo parlando di nuove scoperte sul cervello, diciamo anche alcune cose, alcuni strafalcioni che continuiamo a fare, un po' di sciocchezzaio del cervello di cui liberarci. Ce lo puoi... Ma guarda, puoi... per esempio, una delle cose che si diceva, se vi ricordate, è che noi usiamo solo il 20% del nostro per cervello. Esempio. Ecco, allora torno al discorso che facevi tu della plasticità, perché effettivamente noi ne usiamo, in ogni momento della nostra vita ne usiamo molto molto di meno del 20%, perché il nostro cervello funziona con un sistema che si chiama sparse coding, che è un sistema che ci permette di usare solo quello di cui abbiamo bisogno. Tutto il resto del cervello che non usiamo è cervello plastico, che come dicevi tu, di cui abbiamo bisogno nel momento in cui in qualche modo alcuni dei circuiti che in qualche modo abbiamo nel nostro cervello smettono di funzionare. Il cervello plastico vuol dire proprio questo, cioè avere un sistema in grado di vicariare le funzioni che perdiamo, cioè costruire nuove reti che in qualche modo subentrano le reti che perdiamo, e questo ci permette in qualche modo di mantenerci efficienti. È un po' quello che succede nel DNA, no? Che c'è una quantità enorme di DNA nel nostro organismo, che diciamo però in realtà di quello funzionale è molto poco. In realtà abbiamo scoperto che serve proprio per costruire tutta una serie di cose. Quindi possiamo fare lo stesso discorso. Sì, bravissimo. Noi parlavamo di junk DNA, di DNA spazzatura, addirittura esatto. Pensavamo fosse il 95% del DNA, ma adesso sappiamo che in quel DNA ci serve per produrre una serie di proteine o di acidi nucleici che regolano il funzionamento di quel DNA che un tempo pensavamo fosse l'unico che produceva proteine, per intenderci. È esattamente così. Quindi il nostro cervello lo usiamo più o meno tutto. Ma i sistemi biologici fondamentali devono essere ridondanti. Non puoi pensare che in un sistema biologico Però anche economici ovviamente. In un sistema biologico in qualche modo ci siano elementi che siano assolutamente indispensabili. Devi pensare che gli elementi sono indispensabili quando sono all'interno di un insieme, ma nel singolo caso non lo diventano. E questo, ribadisco un'altra volta, è il concetto di socialità. Socialità anche a livello cellulare, ma socialità anche a livello di società civile, no? Noi dobbiamo e siamo esseri che possiamo vivere e vivere bene solo se socializziamo tra di noi. Allora, siamo in chiusura. Grazie mille Gianvito Martino, sei stato bravissimo, ci hai dato un sacco di informazioni. Il cervello del resto è un argomento di grandissima attualità, di grandissimo interesse, per cui niente, grazie ancora. Per ora ci fermiamo qui. Ci fermiamo grazie, qui grazie e a andiamo voi. Avanti con un altro pezzo scelto da te. Bene, termina qui allora Rimandati a settembre, ci sentiamo la prossima settimana, Roberto Caselli e Paolo Magliocco vi salutano, ciao a tutti. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece